L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati. Se sa che a parlare di Milan se faminga fatica. Fatica! Con tanti argomenti per i ma e il discorso è scarliga. Nessun allarmismo, ma neppure minimizziamo. Certo, il coronavirus sta mettendo alla prova l'Italia. Continueremo ad aggiornarvi nei nostri giornali radio. Quello che qui vogliamo raccontarvi è come anche l'economia che cambia e le abitudini che cambiano sono venute in soccorso in qualche modo. Buon sabato da Anna Migliorati. Avrete capito che andiamo a Milano, una Milano che ha dovuto reinventarsi e senza dubbio dal punto di vista delle nuove abitudini economiche è sotto gli occhi di tutti, almeno nelle regioni coinvolte, un boom del commercio online. Nessun bisogno di accaparrare la spesa, le scorte ci sono, non è necessario, lo ripetiamo ancora. Ma nei fatti, e non solo a Milano, è accaduto. Solo che invece di andare nei supermercati, molti hanno acceso il computer o le app per comprare. E chi fa consegne online, dall'altro lato, ha dovuto arrangiarsi, sia per le misure di sicurezza, sia per la gran mole di richieste. Allora, prima la nostra storia, come sempre, c'è una ormai ex startup digitale che cura le consegne di prodotti alimentari, soprattutto da piccoli produttori, si chiama Cortilia, opera proprio in Lombardia, oltre che in Piemonte ed Emilia, anche nelle zone rosse, tra l'altro. Allora saluto Marco Porcaro, CEO e fondatore di Cortilia. Grazie per l'invito. Come è andata innanzitutto? Ci siamo organizzati prontamente perché il numero di ordini sul sito è cresciuto enormemente in pochissime ore e quindi abbiamo fatto ricorso alla nostra struttura, alla flessibilità della nostra struttura per soddisfare questo tipo di ordini, sia da un punto di vista tecnologico perché gli accessi al sito internet e le applicazioni è cresciuto molto velocemente, sia in termini di organizzazione al magazzino delle consegne a domicilio. Comunque siamo riusciti a erogare tutte le spese acquistate, però sicuramente è stato un momento di tensione. Quanto è stato il boom rispetto a un normale fine settimana? Ma siamo cresciuti tra il 50 e l'80% sostanzialmente. Quindi anche una logistica da organizzare? Esattamente, una logistica che non è organizzata per questo tipo di richieste improvvise. Avete avuto iscrizioni di clienti nuovi o c'è stata una richiesta in massa di clienti che magari la spesa la fanno saltuariamente? No, abbiamo avuto tre comportamenti. I nostri clienti abituali che hanno fatto più spesa, magari hanno comprato più prodotti, diciamo, da dispensa, pasta, per esempio. Una cosa che ci ha colpito molto è l'aumento del lievito. Nuovi clienti, ne sono arrivati tantissimi anche di clienti magari che hanno comprato in passato e che hanno ricominciato in questo periodo a ricomprare su Cortilia. Voi avete avuto anche un problema immediato perché voi consegnavate anche in zona rossa, ad esempio, Codogno, ma non solo. Sì, e abbiamo dovuto sospendere temporaneamente le consegne anche perché non sapevamo quali erano le indicazioni delle autorità. I vostri driver, quelli invece come li avete organizzati? Ai nostri driver abbiamo dato la disposizione di non consegnare all'interno delle case, di lasciare la spesa all'ingresso dell'abitazione, di non raccogliere le firme per la consegna della spesa in modo tale da minimizzare i contatti tra i nostri driver e il cliente. Possiamo dire che è stato anche in tutto ovviamente quello che non ci saremmo augurato e che non ci auguriamo per il futuro, e lo ripetiamo sempre, anche un test proprio? Test che ci saremmo risparmiati molto molto molto molto volentieri, quindi non siamo contenti veramente molto poco di questo incremento dei volumi e di questo incremento di acquisto, però sicuramente sì, si è sviluppata una maggiore consapevolezza che ci sono dei nuovi canali o canali aggiuntivi all'approvvigionamento di prodotti alimentari, che non è solo il negozio fisico ma anche la spesa online. Quindi sicuramente in un momento, diciamo, funesto e non bello, dato questo tipo di opportunità. Grazie, un boom dell'e-commerce nell'emergenza, ma un e-commerce che era pronta e che in qualche modo ha dato dall'altra parte una mano? Samuele Fraternali, Senior Advisor, Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, benvenuto. Sì, l'emergenza che stiamo vivendo ha sicuramente indotto i consumatori italiani a un cambio di atteggiamento che appunto non era prevedibile, e a un maggiore ricorso sicuramente al canale e-commerce per provare a limitare i contatti e reperire le materie prime. C'è stato un picco appunto non prevedibile di domanda. A reggere meno in qualche modo è stata la logistica poi operativa più che i sistemi online, le piattaforme. Sì, sì, assolutamente. Le piattaforme hanno retto molto bene, ovviamente nei limiti. Quello che è andato in difficoltà appunto è stata la logistica, i merchant che appunto che si occupano in prima battuta appunto di consegne di generi alimentari hanno appunto allungato le finestre di consegna e aumentato, come dire, le ore richieste naturalmente ai propri dipendenti per riuscire a sopperire alla domanda. Con qualche differenza, chi tra i merchant offrono questo servizio utilizzando i negozi fisici hanno avuto ancora più difficoltà legate al fatto appunto del comportamento dei consumatori che hanno in questi giorni svuotato appunto i negozi. Nel senso che chi ha anche le catene con la merce a disposizione si è trovato proprio senza la merce, esatto. Mentre chi ha il magazzino ha potuto allungare, ma tanto quella merce ce l'aveva a disposizione solo per il canale online. Questa è un po' la differenza. Di capacità, no? Di risposta al picco. Diciamo un effetto positivo ce l'ha, nel senso che è stato proprio il test di questo sistema economico, una lezione in cui si è tratta. Assolutamente sì. E se vogliamo dare una lettura un po' positiva, forse è anche un sostegno in ottica futura, un volano per il futuro per l'e-commerce alimentare in Italia, che ci tengo a ricordarlo, è un po' il segmento che ancora nell'e-commerce B2C italiano è un po' indietro. Mediamente gli acquisti online a valore incidono per un 7% circa, se guardiamo però nel mondo alimentare l'incidenza è più bassa, intorno all'1%. Cioè abbiamo ancora tanta strada da fare, c'è ancora grande potenzialità. E perché no, magari questo è un po' stato un po' un volano per la crescita futura. Guardando al futuro, fra 20 anni, fra 30 anni, compreremo davvero tutti al supermercato o i due sistemi coesisteranno? I due sistemi continueranno sicuramente ad esistere, nei punti fisici, i negozi, cambieranno un po' la loro forma, diventeranno più tecnologici, più innovativi, si combineranno di più al canale online. Possiamo, sempre girandola in positivo, dire che il fatto che già esistesse questo nuovo sistema economico di distribuzione ha aiutato nell'emergenza? Certo, questa emergenza è nata in Italia, diciamo soprattutto nelle aree lombarde, diciamo così, più sviluppata dal punto di vista dell'e-commerce, soprattutto nei generi alimentari, quindi è anche nata, come dire, la popolazione un pochettino più abituata ad acquistare online prodotti di questo genere. Abbiamo fino adesso parlato di generi alimentari inteso un po' come supermercato, ma anche ricordiamoci proprio di piatti pronti. Se guardiamo ad esempio nel mercato cinese, dove appunto la situazione d'emergenza si protrae da più tempo, consegna di cibi, di piatti pronti è già sviluppata e sta già cambiando rispetto a come era tradizionalmente. È un test che comunque permetterà a tutta l'infrastruttura di crescere e migliorarsi per un futuro. Grazie allora. Grazie a voi. A volte l'economia che ci cambia nasce proprio dalle emergenze. Piccole cose crescono con Marco Gambaro. Benvenuto Marco, è stata una settimana questa decisamente un po' particolare anche per l'economia delle piccole cose, almeno in alcune regioni. Allora forse vale la pena anche spiegare che succede. Alcune regioni sono state prese delle misure di chiusura, di aree, di esercizi, di attività economica. Ora è interessante porsi il problema come vengono distribuiti i costi e in qualche modo i vantaggi di queste chiusure. Non stiamo qui ponendoci il problema degli effetti del coronavirus sull'economia, che è un discorso molto più complesso, più lungo, e che sì, ci sono costi monetari e non monetari. Innanzitutto partiamo dall'esempio più comune, la chiusura delle scuole. Le scuole non hanno ricavi, quindi in realtà le scuole non perdono nulla chiudendo, le organizzazioni non perdono nulla. Chi perde sono un po' gli utenti, perdono in due sensi, ricevono un po' meno il servizio, poi in qualche caso quando gli allievi sono piccoli devono predisporre misure alternative, parenti, babysitter, che possono anche essere economiche. economiche, ovviamente. E talvolta possono essere costosi. Naturalmente però anche gli stessi benefici sono distribuiti a questi utenti, perché i benefici maggiori, primi di chiusura delle scuole, sono esattamente per gli allievi e per i professori che non corrono il rischio di darsi, diciamo così. Un caso diverso è quello dei cinema o dei teatri, che a tutti i ricavi per abbonamento, dal punto di vista monetario sarebbe come per le scuole, cioè gli abbonamenti sono già stati pagati e quindi l'organizzazione non perde niente. Se io invece chiudo un cinema, il cinema perde i biglietti che non sta vendendo, meno i costi fissi che non può evitare, personale e l'affitto della sala, mentre invece il film viene pagato generalmente con una percentuale sui ricavi, quindi non ci sono i ricavi, ma non ci sono neanche le spese. E poi abbiamo tutti gli esercizi commerciali, lì ovviamente anche lì dipende da quali esercizi commerciali ci sono. Naturalmente, lì ci sono gli esercizi commerciali. Allora immaginiamo una situazione in cui un bar deve chiudere, è chiaro che le perdite relative alla chiusura ordinata sono quelle relative a quelli che avrebbe fatto, perché se normalmente fa in cassa 1000 e gli viene chiuso, non è detto che le perdite siano 1000, perché probabilmente in quel periodo con il coronavirus avrebbe incassato 500, per cui 500 magari li avrebbe persi lo stesso. 500 li avrebbe persi lo stesso di ricavi e 500 li perde perché gli dicono che deve chiudere. Naturalmente a sua volta ne genera perdite per qualcun altro. E questa è ovviamente tutta una catena. E poi è tutta una catena che si riverbera. Il vantaggio, l'abbiamo detto, è stato deciso di chiudere per motivi sanitari, è che c'era una forza di causa maggiore, e questa è stata la decisione, non è qui che dobbiamo discuterne. Grazie allora Marco. Grazie, arrivederci. Ci ritroviamo la prossima settimana, speriamo davvero parlando d'altro. Grazie in regia Filippo Aureggi, un saluto da Anna Migliorati. Tutte le puntate sul nostro sito radio24.it e da questa settimana potete anche scriverci economia delle piccole cose @radio24.it.